In a brown sort of bitch. Sick look, sick look, sick look, sick look. Sono un dark boy, figlio di puttana. Fattivo il mio giro, scherzi con un suicidio. Sputo fumo dalla bocca, locomotiva. Dark and 37, tutti i miei amici sono transetta. The dark boy, figlio di puttana. Fattivo il mio giro, scherzi con un suicidio. Sputo fumo dalla bocca, locomotiva. Dark Gang 37, tutti i miei amici sono transetta. Dark boy, figlio di puttana. Non parlarmi di trap, sto vestito come un punk. Collane d'oro bianco, in un brown e sick look. Sto nel cielo come un calcio, metto colpi da tre. Fra Danilo Gallinari, non ho fottere nel giro. Non vuoi vedere una scena di Kurosawa? Ci facciamo rock and roll di metal. Piazza a Rione, tu stai a casa a fare casa. Parli di me, esce il sangue dalla bocca. Faccio attaccare alla tua tipi gomiti alle gasce. Trappando nelle case come le storie di bronzo. Sti rapper sono come i loro gioielli finti. Dark boy, dark boy, prima categoria. Senti l'adrenalina, do fuoco all'asfalto quando sto in giro. Sto fumando benzina, fai a non prendermi in giro. So che ti serve qualcosa, ma non amore, solo droga. Nelle tasche e nel corpo, fatti con me, ti metto a posto. Ormai sto così alto che non so se ritorno. Sono un dark boy, figlio di puttana. Fatti col mio giro, scherzi con un suicidio. Sputo fumo dalla bocca, locomotiva. Dark and 37, tutti i miei amici sono transetta. The dark boy, figlio di puttana. Fatti col mio giro, scherzi con un suicidio. Sputo fumo dalla bocca, locomotiva. Dark Gang 37, tutti i miei amici sono transetta. Dark dark, tuffo nel vuoto tipo banzai. La tua tipa mi vuole seguire in stanza. Oh cazzo, quella troia è pazza. Bandana e collane addosso come un pirata. Squali bianchi, non temiamo un piranha. Passiamo sotto blocco, giuro sembra una parata. Ho una cima nella canna grossa come una patata. Disegni scritti addosso come una lavagna. Capelli colorati, penso di essere Lady Gaga. Penso di essere il nuovo papa. Una croce d'oro al collo così so che Dio mi guarda. Sto urlando fanculo le guardie, sto urlando fanculo lo Stato. Con la gang abbiamo solo un piano A: alzare i soldi e farli durare per tutta la vita. Parla di soldi e levati dal cazzo. Ho una soglia dell'attenzione bassa. Sto tornando sopra il palco. Fanculo ne storpo a beccarmi per strada. Sono tornato per strada. Non voglio la tua ragazza. Vede noi e poi non torno a casa. Sto fumando 3 grammi di gas.